Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la prima della settimana. E allora i temi di questa giornata economico-finanziaria in America, lo dico già perché molti di voi ci hanno chiesto in queste ore, Wall Street è aperta regolarmente, quello che è chiuso per il Columbus Day invece è il mercato delle obbligazioni. Dicevo, l'America resta positiva più 0,6% e dà una mano a tutte le borse europee che iniziano la settimana di nuovo con rialzi netti, consistenti, inequivocabili. Parigi più 1,3, Francoforte più 1,4, Londra più 1,1, Milano più 1,6% sui due indici. Nel caso specifico poi a Piazza Affari tiene banco la vicenda Fiat e anche Exor. Insomma, Fiat guadagna il 6,6% sopra gli 11 euro operazione, Exor più 8,4% sopra i 15 euro operazione, molto bene anche Unipol più 5,7% e Pirelli Autogrill che guadagnano il 4,2%. Fondiaria. Il 3,90 è STMicroelectronics, ma anche Bulgari e UbiBanca guadagnano il 3,7%. Chiudiamo con chi guadagna più del 2, ossia Italcementi e Mediaset. Di negativo c'è veramente poco, solo Mondadori che perde lo 0,8%, e poi c'è il caso di giornata che oltre a Exor Fiat si chiama Tiscali. Dunque, il rialzo in questo momento è del 215%, per la precisione 67 centesimi per il titolo. Anche di questo parleremo ampiamente. Mi sembra un rialzo un po' eccessivo, vediamo che non ci sono degli errori nel terminale, però comunque andiamo a vedere e verificare poi anche questo. Dicevo, oltre a Tiscali, l'Exor sul risparmio guadagnano il 16,7%. Risanamento, bocciato di nuovo il piano, per il 3,5%. 349-238-6666 per i vostri sms. Ci occuperemo delle ricette annunciate oggi dal ministro Tremonti. Soprattutto parleremo oggi di Banca del Sud, è tornato infatti il ministro, ci sono delle anticipazioni che ha il quotidiano di Napoli il mattino sulla struttura della Banca del Sud, sul fatto che si appoggerà alla rete degli uffici postali, ma anche e soprattutto sull'emissione dei bond del Sud. Sud bond, non so come verranno chiamati, obbligazioni per aiutare lo sviluppo del mezzogiorno che potranno essere emesse da vari soggetti. Anche di questo parleremo. Poi avremo su vostra richiesta un aggiornamento su un indice che alcuni di voi già conoscono, il Dry Baltic Index, è l'indice che misura i prezzi del noleggio dei cargo al mondo per quelli che non trasportano petrolio, ed è un indice molto importante per capire come si sta muovendo il ciclo economico, dove costa di più noleggiarli, dove è tornato a crescere il prezzo, significa che sono tornati a crescere anche gli scambi commerciali. Rapidamente le altre notizie in breve. È chiaro che in apertura ci occuperemo anche di Gran Bretagna, annunciato infatti un piano poderoso di privatizzazioni in Gran Bretagna per far cassa dopo i miliardi, oltre 100 miliardi che è costata questa crisi al governo britannico, quanto aiuti e sostegno in primo luogo alle banche. Le notizie in breve. Allora, il petrolio, $73,5 al barile, più 2,5%, torna stabilmente sopra i $70 al barile, con un euro che ha toccato di nuovo a livello 1,48 nei confronti del dollaro. Di nuovo sopra i $1,060 anche l'oro, che ha superato appunto i $1,060 all'once. Nel frattempo dalla FAO arriva, che è l'Organizzazione Mondiale dell'ONU per i diritti all'alimentazione, insomma, la FAO stima che bisognerà aumentare nei prossimi anni, da qua al 2050, la produzione di cibo del 70% per far fronte a una domanda di popolazione mondiale che sarà arrivata a quota 9 miliardi, cioè 2 miliardi 300 milioni di persone in più da qui al 2050. E sempre la FAO stima che in questo momento la percentuale della popolazione mondiale che è affamata è scesa al 5%, ma stiamo sempre parlando di 370 milioni di persone, però il tasso comunque va via via calando e tra 40 anni, secondo la FAO, dovrebbe essere raggiunto l'obiettivo di aver dimezzato la fame nel mondo, un obiettivo che però inizialmente la World Economic and Food Summit si era posto per il 2015, adesso si slitta, diciamo, al 2050. Alcuni di voi avranno ascoltato la diretta che Radio 24 ha dedicato al Nobel all'economia. Ostrom e Williamson, questi i due vincitori del Nobel dell'economia per il 2009, studiosi della governance economica, ossia di meccanismi di controllo, di decisione interni a un'azienda. La Ostrom è la prima donna premiata con un Nobel all'economia, è nata nel 1933 e insegna all'Università dell'Indiana. Lei si è occupata, ed è per questo che ha vinto il premio Nobel, soprattutto per aver dimostrato come la proprietà pubblica può essere gestita dalle associazioni di utenti. Invece Williamson, che insegna a Berkeley, ha vinto il Nobel per i suoi studi sulla risoluzione dei conflitti aziendali. E adesso iniziamo con il primo tema, parliamo di Italia, in qualche modo inviti da un lato e sottolineature dall'altro, che sono arrivati oggi due esponenti dell'economia italiana. Mi riferisco alla Presidente Confindustria Marcegaglia e al Ministro dell'Economia Tremonti. Questo poi ci permetterà di arrivare anche a un appello del Presidente della Repubblica Napolitano, che ha detto: attenzione, l'indebitamento del Paese è salito oltre un livello tollerabile. Ma andiamo con ordine. Allora, Emma Marcegaglia chiede che il Paese non sia dilaniato dalle risse della politica e che il governo vada avanti con la responsabilità delle riforme, ma deve andare avanti con più decisione rispetto al passato, deve concentrarsi maggiormente sulla crisi. Certamente deve continuare ad andare avanti con ancora più decisioni. Io penso che l'unico modo per uscire da questa situazione è rimbalzare le polemiche, non cogliere le polemiche, ma invece agire concentrandosi sulla crisi, agire concentrandosi sulle cose concrete e vere che questo Paese ha bisogno di vedere fatte dopo tanti anni di immobilismo. E nel frattempo, mentre la Presidente Confindustria, appunto Marcegaglia, ha detto: attenzione, andate avanti anche con le grandi opere, occorre trasparenza, confronto, ma non si può essere bloccati dai veti di piccoli gruppi contrari, un allarme forte sullo stato di questa crisi economica è arrivato dai costruttori italiani. Nel 2009 250.000 posti di lavoro a rischio, lo ha detto il Presidente dell'ANCE, appunto, l'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, Paolo Buzzetti, che ha presentato il rapporto 2008 sulla presenza delle imprese italiane di costruzione all'estero. Sentiamo al microfono il nostro Savino Gallo. Nonostante i termini di ripresa generali che ci sono, per l'edilizia il momento peggiore sta arrivando, nel senso che sono terminati i portafogli ordini che c'erano e quindi sull'occupazione e sulle possibilità, soprattutto per le imprese più piccole, di veder finiti questi portafogli, dover licenziare e in qualche caso di dover chiudere, sta diventando una realtà sempre più pressante. Sui famosi 600.000 di cui parla Confindustria, 250.000 sono nostri, cioè sono quelli del settore delle costruzioni, insomma, come a rischio. Bisogna riconoscere che alcuni provvedimenti sono stati presi dal governo, come la delibera CIPE, i programmi di opere piccole e medie, le scuole. Noi per esempio avevamo presentato un lungo elenco di opere anche dal punto di vista dei dissesti idrogeologici, di opere piccole ma indispensabili, il piano casa. Però di fronte alla crisi ci rendiamo conto che ci sono problemi antichi e non riusciamo a rispondere in termini reali, mentre in altri paesi sono riusciti a fare nel frattempo le cose che avevamo deciso. Noi le decidiamo ma non riusciamo a fare. I segnali di ripresa non sono sufficienti nell'immobiliare assolutamente. È un sistema di regole complicate, di passaggi burocratici troppo complicati, quindi bisogna semplificare, avere il coraggio di semplificare nettamente. Questo vale sia sui piani casa approvati dalle regioni, sia sulle opere pubbliche. E c'è un discorso di fiscalità che va affrontato, perché naturalmente è un carico fiscale esagerato che non aiuta in questo momento difficile. E do un dato tra i tanti: si sta ritardando i pagamenti, per esempio, delle amministrazioni pubbliche. Quindi non solo difficoltà del settore, ma ritardo anche nei pagamenti della pubblica amministrazione. E Buzzetti, quindi presidente dell'ANCI, ha anche parlato del rapporto tra mondo dell'edilizia e mondo delle banche, un tema che è ricorrente, direi quasi che è un filo rosso in qualunque nostro approfondimento sulla situazione economica del paese. E dicevo, è tornato sul rapporto banche e imprese, segnalando che un problema per l'edilizia poi storicamente lavora con grosse linee di credito bancarie, un problema per l'edilizia arriva proprio dalla stretta sui mutui. Nell'edilizia da parte delle banche c'è stato un momento di grande attenzione a causa della crisi. Quello che bisogna dire è che devono tornare con coraggio anche gli istituti di credito a finanziare le famiglie, quindi il ragionamento più che sulle imprese, per carità, ma è sulle famiglie alle quali spesso si fa grande fatica a concedere per esempio i mutui per l'abitazione. Si fa un'analisi molto più attenta del passato, perché ovviamente si ha paura di un settore in un momento di crisi, del settore dell'edilizia, e questo deve essere invertita come tendenza, perché altrimenti la ripresa un po' naturale e fisiologica del mercato non si realizza, proprio anche per questo freno del finanziamento. E di banche ha parlato di nuovo anche il ministro Giulio Tremonti. Perché? Perché ha detto in sostanza Tremonti: attenzione, scusatemi, il sistema Italia potrà contare su una nuova banca, si chiamerà Banca del Mezzogiorno, e avrà come alleato la rete delle Poste Italiane con gli sportelli su tutto il territorio, così come, sempre secondo il ministro Tremonti e sempre secondo il piano anticipato dal quotidiano di Napoli di Mattino, verrebbe messa a punto anche, per rilanciare il credito al sud, un'emissione di bond sud che dovrebbero garantire, quindi obbligazioni destinate al sud che dovrebbero garantire il sostegno finanziario alle iniziative imprenditoriali destinate al Mezzogiorno. Di questo però parleremo nella seconda ora del programma. Tremonti, oltre che sull'IRAP, adesso ascolteremo, è intervenuto anche su altri aspetti. Intanto, diciamo, sul fronte fiscale ha detto: attenzione, se noi l'IRAP la eliminiamo e basta. E poi è tornato anche sul tema delle aggregazioni, dei distretti, ipotizzando anche interventi da parte del governo. Ascoltiamolo in questo passaggio, era a margine del direttivo dell'Asso Lombarda, oggi a Milano. È una delle criticità del sistema. Io mi limito solo a dire che in Francia non c'era l'IRAP e quindi è difficile eliminare una cosa che non c'è. E in secondo luogo, in base ai dati che abbiamo, viene eliminata la tax professionnelle per essere sostituita da altre tre tasse. Tanto che ambienti autorevoli del governo francese stanno discutendo su questa scelta. Ecco, tutto qua. Poi ogni paese fa quel che vuole, però non è che è eliminata un'imposta, ne stanno mettendo tre: due locali e la carbon tax. E non so se il bilancio finale è positivo. Se noi la eliminiamo e basta. Lavoriamo insieme per vedere qualche strumento che sostenga l'apostrofo equity, cioè dire il patrimonio delle imprese. Un primo intervento è stato fatto ed è stato detassare gli apporti di capitale nel patrimonio netto delle imprese. Un altro intervento in questa logica è stato lo scudo fiscale, che è stato fatto anche e soprattutto per patrimonializzare le imprese. E poi un ragionamento comune che si può fare sui distretti, nei distretti, per aggregare le imprese. Questo può essere una scelta strategica. È stato così con la moratoria. L'avviso comune, la scelta di sospendere i rapporti di dare e avere con le banche, e anche lì c'era la voce equity, la voce patrimonio. Se la domanda che viene alle imprese inizia all'alfabeto come A, come aggregazioni, credo che sia la cosa giusta da fare in questo momento. Gli imprenditori rinunciano a una caratteristica, in molti casi fondamentale, che è il loro individualismo. A come aggregazioni, se si fa un protocollo comune tra le imprese, le associazioni, i distretti, credo che sia dovere del governo mettere una leva, un qualche fattore di incentivo. E poi l'invito che io faccio, perché a Solombara da Confindustria non si studia bene, non applica la legge sui distretti? Molte regioni ci sono già, vuol dire meno costi di contabilità, più forza con le banche, meno complicazioni fiscali. Sì, ministro Tremonti, vedo che alcuni continuano a scriverci sullo scudo fiscale. Beh, avrete letto che insomma sabato la circolare diffusa dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti, per esempio che i conti dei capitali rientrati non solo saranno segretati, ma non dovranno nemmeno essere comunicati all'anagrafe tributaria, quindi avrò questo conto segreto e invisibile anche all'anagrafe tributaria. Inoltre la copertura si estenderà alla società di capitali, questo già l'avevamo detto, che fanno capo alle persone fisiche che effettuano il rimpatrio dei capitali, quindi rimpatrio i miei capitali legalmente portati, ma anche quelli che legalmente può avere portato una società che fa capo a me. Infine, i capitali depositati in Svizzera si potranno soltanto rimpatriare, cioè non si potranno solo sanare e lasciare lì, come avviene per altri paesi comunitari. Tornando invece all'intervento del ministro Tremonti, oggi al convegno sulle piccole e medie imprese, ha detto Tremonti che il sistema bancario italiano è troppo asimmetrico, troppo distante dal territorio, perché due banche hanno il 30% del mercato. E poi una battuta che forse creerà un po' di polemica, ha detto: alla fin fine forse era meglio tenersi le BIN, le banche di interesse nazionale, che erano la Banca Commerciale Italiana, il Banco di Roma, il Credito Italiano, quelle che poi furono privatizzate, con una punta, diciamo così, di critica, anche forse più di una punta, proprio sulle privatizzazioni. Questo è un paese che ha il 95% del PIL che è fatto da imprese con meno di 15 addetti e ha il 30% del mercato bancario fatto da due giganti quasi monopolisti su quel 30%, lontani dal territorio, appunto. Se la stessa impresa va a una banca piccolina e gli danno i soldi e va a una banca più grande e non glieli danno, vuol dire che c'è un problema di bilancio, ma non dal lato dell'impresa piccola glieli danno i soldi, dal lato della banca grande. Poi, oh ragazzi, avete voluto il libero mercato, ecco il risultato. Una volta c'erano le BIN e magari avrebbero fatto diverso e mi sembrava che andassero molto bene le grandi BIN. Avete voluto spacchettare l'Enel, avete visto i risultati in bolletta, fantastici, le Genco, no? Avete voluto privatizzare la Telecom, ecco il risultato, le autostrade, ragazzi, vi do l'indirizzo, rivolgetevi agli ingegneri dell'industria e della finanza italiana. Avete voluto privatizzare, così il ministro Tremonti. Devo dire che in quegli anni, cioè, anche il ministro Tremonti faceva parte, se non ricordo mai, di una schiera di pensatori liberali che vedevano le privatizzazioni. Questa crisi ha rimesso in discussione un insieme di cose, forse anche l'esito di alcune di queste privatizzazioni, su cui però, ripeto, c'era grandissimo consenso nella parte più liberale, meno statalista del paese allora. Comunque oggi sulla finanza pubblica è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Napolitano con una frase, diciamo, brevissima, lapidaria, però ascoltiamola perché è di quelle che pesano. Una spesa pubblica che ha ecceduto largamente i limiti di un indebitamento normale o tollerabile e che senza dubbio deve essere anche ricondotta sotto controllo. La spesa pubblica ha ecceduto il livello tollerabile, quindi l'indebitamento è andato oltre un livello normale tollerabile e deve essere ricondotto sotto controllo. Anche perché quest'anno il nostro debito dovrebbe arrivare al 115% del PIL per poi salire al 117% l'anno prossimo. Questa è una stima del Ministero dell'Economia. Il Fondo Monetario stima che arriveremo al 120% l'anno prossimo. Comunque, teniamo assieme la critica, così quasi da storico dell'economia, del ministro Tremonti sul processo di privatizzazioni. Che benefici ha portato? Enel non è completamente privatizzata, ma soprattutto Telecom sì, lo è. Del tutto, fu chiamata la madre di tutte le privatizzazioni, così come le banche di interesse nazionale non ci sono più, le banche sono tutte a capitale privato. Ebbene, teniamo assieme debito pubblico e privatizzazioni, perché ci spostiamo in Gran Bretagna, paese che per antonomasia, con Margaret Thatcher al governo, fece partire la grande stagione, la lunga stagione delle privatizzazioni, che poi fu applicata in tutta Europa, quindi anni 80, e che adesso si trova invece a dover tornare a privatizzare perché è schiacciata la Gran Bretagna da un debito e da un deficit stratosferico che si sono generati sostanzialmente aiutando per salvare le banche britanniche. Leonardo Maisano, corrispondente sulle 24 ore da Londra, buonasera. Buonasera. Allora, il deficit britannico a che livello sta chiuderà il 2009? Circa il 12%. Che è un livello, diciamo, quasi tra due volte e mezza quello italiano in rapporto al PIL. È un livello stratosferico anche per la Gran Bretagna. Assolutamente. E quindi che cosa ha annunciato oggi Gordon Brown? Ha annunciato una serie di privatizzazioni, o quantomeno di dismissioni di partecipazioni dello Stato in una serie di società. È un annuncio ancora vago per certi aspetti. L'idea, l'obiettivo è quello di raccogliere 16 miliardi di sterline, di cui 5 dovrebbero venire da vendite dei beni che fanno capo all'amministrazione centrale e 11 da quelle dei governi locali. Governi locali che sono ovviamente quanto mai indispettiti da questa iniziativa, perché se passerà li costringerà a vendere soprattutto beni immobiliari in un momento in cui il mercato immobiliare è basso e quindi con una potenziale perdita. Però i termini di quello che i governi locali dovranno fare e come gestiranno queste risorse e le trasferiranno al tesoro è ancora da definire. Quello di cui si è detto sono i 5 miliardi che fanno capo all'amministrazione centrale e sono beni e società come l'alta velocità che collega la stazione di San Pancras a Folkestone lungo la linea dell'Eurotunnel. Non è l'Eurotunnel è una società privata, è semplicemente la linea ferroviaria sulla quale corrono i treni che poi entrano nell'Eurotunnel. Dovrebbe cedere. Però il complesso è di quasi di oltre 17 miliardi di euro, no? Sì, sono 16 miliardi di sterline, quindi oltre 17 miliardi di euro. Allora, sentiamo l'annuncio di Gordon Brown, che insomma è il primo che io ricordo, adesso probabilmente mi sbaglio, ma da quando la crisi finanziaria è stata messa in sicurezza, la parte finanziaria è stata messa in sicurezza, è il primo annuncio di un piano di rientro da tutti i soldi che la Gran Bretagna ha dovuto tirar fuori per salvare o garantire gli asset finanziari, banche, ma non solo. Sentiamo Brown. We plan a sale of assets to deal with our debt issues. Abbiamo pianificato la vendita di beni pubblici per far fronte al problema del nostro deficit. Voglio annunciare che beni per complessivi 16 miliardi di sterline saranno venduti nel giro dei prossimi 2 anni. Abbiamo fatto una lista dei beni che siamo determinati a mettere sul mercato nel prossimo futuro. Questa lista include il tunnel di Dartford sul Tamigi, il sistema di scommesse TOT, la partecipazione nel capitale della società del tunnel sotto la Manica e della ferrovia che lo percorre e la quota statale nell'azienda che arricchisce l'uranio per le centrali atomiche, la Urenco. Inoltre saranno in vendita anche numerose proprietà immobiliari che verranno definite prossimamente. E poco dopo l'annuncio di Gordon Brown, subito la risposta e il commento del leader dei conservatori che corre per diventare il prossimo primo ministro britannico, David Cameron. Ovviamente abbiamo bisogno di questa misura, ma come sa bene qualsiasi famiglia, la vendita di un qualche bene aiuta nel breve termine. In verità però non è di grande aiuto nel lungo termine. Dobbiamo dunque continuare la stretta sulla spesa pubblica, sul deficit, e dobbiamo soprattutto assicurarci che dalla vendita dei beni corrisponda un valore adeguato. Non dimentichiamoci che stiamo parlando dello stesso primo ministro che ha venduto le nostre riserve d'oro e che, se la vendita fosse avvenuta più tardi nel tempo, si sarebbe ricavato 4 volte tanto, quindi non accetteremo altra incompetenza da parte sua. Dunque, Leonardo Maisano, visto che qui si discetta molto a livello accademico se le privatizzazioni degli anni 90 furono corrette o no, si parla di Banca del Sud, in Gran Bretagna hanno dovuto affrontare una crisi finanziaria e bancaria ben più forte della nostra, tirare fuori molti più soldi, oltre 100 miliardi di euro equivalenti, ma soprattutto si è in piena campagna elettorale e Gordon Brown vuole iniziare a mettere sotto sicurezza il deficit. C'è almeno condivisione tra conservatori e laburisti sulla necessità comunque di tornare rapidamente a un deficit sotto controllo? Oppure, diciamo, su questo lo scontro è più politico che economico? No, no, sull'esigenza di rimettere di far quadrare i conti c'è assoluta comunione di opinioni. Sui metodi sono diverse le strategie, diverse i menù. I conservatori hanno appena annunciato al loro congresso un piano di tagli piuttosto consistente, direi massiccio. Gordon Brown è stato molto più vago sui tagli, favorendo ovviamente la leva fiscale, però sull'esigenza di rimettere a posto i conti c'è assoluta comunione di opinioni. Teniamo presente che se le cose vanno come prevedono, in un paio d'anni il deficit inglese sarà il debito inglese sarà l'80% del PIL, che per gli standard inglesi è elevatissimo, certo. Grazie Leonardo Maesiano in collegamento con noi da Londra. Meteo, pubblicità, poi la borsa, la vicenda di Tiscali. Siamo tutti d'accordo che il titolo abbia guadagnato il 180%, ma è frutto dell'operazione di un diritto e un'azione. Ne parleremo adesso. Ancora due battute, poi lascio la linea al meteo. Alcuni di voi ricordano che anche Tremonti privatizzò con l'ultimo governo privatizzazione all'Italia. Sì, voluta più da Berlusconi che da Tremonti. Tremonti su questo fu molto più silente durante la privatizzazione dell'Italia. E ancora altri di voi scrivono che l'errore non fu privatizzare, ma il modo in cui si sono gestite le privatizzazioni, soprattutto diciamo non controllando che cosa si è fatto dei gruppi privatizzati. Sì, potremmo stare un'ora a parlarne. Una volta che privatizzi, i soldi vengono messi dentro e poi il privato del gruppo privato fa quello che vuole, per cui insomma, però sicuramente il problema più che la privatizzazione in sé è il modo in cui viene fatta, chi la controlla, che ruolo lo Stato avvoca a sé nel gestire magari con un nocciolo duro la società privatizzata. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di borsa. Messaggi sulla privatizzazione li abbiamo letti. Sì, allora alcuni di voi citano anche Autostrade, Telecom. Siamo d'accordo, facciamo intere puntate per esempio sulla privatizzazione di Autostrade, quanto fu venduta, quanto poco fu venduta a loro. Non è però colpa dei privati se lo Stato non sa vendere i suoi gioielli, insomma, se lo offre a poco prezzo rispetto a quello che poi erano gli incassi. Uno se lo compra a quel prezzo lì. Ci fu forse, scrivono alcuni di voi, un po' di fretta storica nel privatizzare. Sì, bisognerebbe anche però andare indietro nel tempo, perché nel 92 la lira fu cacciata dallo SME, era un periodo difficilissimo, molti davano per certo che non saremmo entrati nell'euro, ci furono tre manovre finanziarie durissime, Ciampi, Dini e Amato, forse non in quest'ordine, insomma manovre finanziarie pesantissime. Allora è chiaro che per far cassa, rimettere i conti in ordine, per riuscire a entrare nell'euro, si vendette forse anche con un po' di fretta, forse non controllando poi la gestione successiva. Comunque la borsa. Allora, molto bene tutte le borse, visto che venivano già da una settimana di rialzi, 1,5% Milano sulle FTSE MIB, Parigi più 1,2, Francoforte più 1,3, Londra più 1%, l'America guadagna adesso 0,5%. Da inizio anno il rialzo ormai delle borse del 22%. E ci sono alcuni spunti non da poco. Al di là del caso Tiscali, che chiariamo subito, è un effetto ottico il rialzo che sto per dare, più 180%. In realtà, Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. In una battuta, l'effetto ottico su Tiscali. Sì, guarda, le azioni diritto hanno guadagnato, è vero sì, il 179%. D'altra parte, se si considera appunto il valore dei diritti e il valore delle azioni, la perdita è del 29%, ovvero mi spiego meglio, chi possedeva venerdì scorso un'azione oggi si ritrova in mano un'azione e un diritto il cui valore è del 29% inferiore al valore dell'azione di venerdì scorso. Poi è vero sì che le azioni sono salite oggi del 179%, d'altra parte va anche detto che il valore delle azioni è completamente disallineato rispetto al prezzo teorico che dovrebbero avere tenendo conto del valore dei diritti. E questo succede perché rispetto agli anni passati la Consob, come sappiamo, vieta le operazioni di short, cioè di vendita allo scoperto su titoli di società per le quali è in corso un aumento di capitale. Quindi che cosa succede? Non possono operare gli arbitragisti che invece, diciamo, negli anni passati facevano sì che ci fosse sempre un allineamento tra il valore teorico espresso dai diritti e il valore delle azioni. Ad esempio anche per Banca Profilo si determina la stessa tipo di problematica, sì, come era successo poi per Pirelli Real Estate durante l'aumento di capitale o per Seat Pagine Gialle. E questo spiega perché ho parlato di rialzo come illusione ottica. Andiamo invece a chi rialzi li ha avuti veramente, e mi riferisco al caso di oggi in borsa: Fiat più 6,7, Exor più 8,5. Exor va sopra i 15 euro per azione, Fiat sopra gli 11 euro per azione. Sì, in questo caso infatti appunto trascinare in alto Exor è soprattutto la performance di Fiat, e su Fiat ci sono una serie di motivazioni che trascinano in alto le azioni. C'è l'attesa per la trimestrale che è in calendario il prossimo 21 ottobre, ma soprattutto l'attesa per la presentazione del piano di rilancio di Chrysler fissata il 4 novembre. Ricordiamo che nei giorni scorsi in aggiunta Marchionne ha pronunciato parole molto positive, ha rammentato che il gruppo ha confermato che il gruppo torinese raggiungerà nel 2009 un utile operativo vicino a 1 miliardo, che è una cifra ben superiore, diciamo, al consensus circolato tra gli esperti e gli analisti. E Marchionne inoltre ha detto che Chrysler ritornerà in utile entro 24 mesi. In più c'è anche il fatto che Morgan Stanley, che il 1 ottobre aveva espresso, diciamo, una raccomandazione molto positiva sulle azioni La ricordiamo. Di Fiat, oggi è tornata alla carica e ha spiegato, diciamo, la motivazione. Ha detto che ha fatto una serie di analisi nelle quali ha stimato appunto le sinergie che si creeranno tra Fiat e Chrysler, ma tenendo conto di documenti assolutamente pubblici, ovvero innanzitutto... Sì, ma quel target, quell'obiettivo di prezzo era assurdo, perché diceva che nella peggiore delle ipotesi poteva valere 3 euro, nella migliore 33. Detto così, sono capace anch'io. Comunque, allora andiamo avanti, al di là di Fiat, Unipol di nuovo più 6%, andiamo con dei commenti un po' più brevi perché ho molti titoli. Unipol più 6% anche oggi a 1,14 euro, e poi Autogrill più 4,4% sopra 9 euro. Autogrill e Unipol. Guarda, su Unipol non è che ci siano voci particolari, si può appunto sottolineare, puntare l'indice sull'andamento di borsa. Sono 3 mesi praticamente che i titoli della compagnia assicurativa registrano quasi un progresso dietro l'altro. Per quanto riguarda invece Autogrill, in questo caso la motivazione sono le indicazioni positive contenute proprio nella lettera all'investitore pubblicata ieri dal Sole 24 Ore, un articolo nel quale la società ha confermato le attese di un EBITDA stabile a 600 milioni per il 2009 con un fatturato e margini stabili. E questo riguarda invece Autogrill, appunto la lettera all'investitore del Sole 24 Ore. Direi ancora un paio di titoli, perché abbiamo visto andare molto bene le CIR oggi in borsa, ma non solo, anche così continuo: Pirelli più 4, Fondiaria più 4, ST Microelectronics più 3,80, Bulgari più 3,7, Ubibanca più 3,5, e ancora i Italcementi più 2,8, l'Automatica più 2,2%. Buzioni c'è in più 2,1% e Campari più 2%, Intesa San Paolo più 1,80, Generali più 1,7 come Mediobanca, e ancora tra i titoli le CIR più 1,6 hanno corretto nel finale, Impregilo più 1,6 come Unicredito, Saipem, Mediolanum e Banca Popolare di Milano più 1,4%. Fronte opposto, invece, Mondadori, meno 1,4%. Vorrei sapere, dopo l'informazione per chi è in viaggio, quale è stata la reazione di risanamento dopo l'ennesimo no arrivato alla procura al piano di rilancio. Di nuovo in diretta, allora, no, Michele, il titolo di risanamento ha chiuso con un 3,5% di calo, è il peggiore dopo Neurosoft, meno 4,7%. Ovviamente le azioni hanno risentito del contraccolpo della, come hai già detto tu, della posizione della procura, che ha ribadito appunto il fatto che non crede nel piano di rilancio dell'azienda, ha mosso anche delle critiche, e quindi a questo punto evidentemente è ancora tutto da vedere, però il gioco si fa più difficile per la società. Grazie Nola Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Chiaro che si fa più difficile, ma comunque è l'ennesima bocciatura. Tra l'altro, insomma, sono sempre i PM di Milano, Laura Pedio e Roberto Pellicano, a non aver cambiato idea sul piano di risanamento, più piano di salvataggio per risanamento che le banche creditrici hanno lanciato. La situazione si complica. Comunque l'udienza preliminare è fissata il prossimo giovedì 15 ottobre. Ricordo che il risanamento è il gruppo immobiliare che faceva capo a Luigi Zunino, di fatto commissariato, è stato obbligato a uscirne perché le banche, solo intesa a 700 milioni di euro di esposizione nei confronti di risanamento, alcune banche sono pesantemente esposte. Adesso però restiamo in tema di mercato e di indici, ma questa volta per tornare su vostra richiesta, devo dire, tornare a parlare di un indice che misura l'andamento dell'attività economica e lo fa in una maniera abbastanza singolare. Si chiama infatti Baltic Dry Index, ce ne siamo già occupati una volta. Perché dry? Perché insomma misura i costi del trasporto, il noleggiare un cargo per trasportare merce su 21 rotte nel mondo, le più trafficate via mare, tranne che nella componente petrolio, perché sappiamo che poi il petrolio ha tutto un mercato suo. Ecco perché del dry, insomma, è importante, perché ti dà l'andamento, quello che si chiama indice precursore, cioè ti dice prima che le cose si trasformino in dati sul fatturato e sulla produzione industriale se sta ripartendo una domanda di beni, cioè misura l'attività alla radice della catena produttiva. Allora, la logica suggerisce che il Baltic Index dovrebbe seguire l'andamento comunque della borsa americana. Vediamo come sarà mosso. Al 28 maggio del 2008 valeva 11.700 punti, massimo storico. Quindi affittare un cargo per trasportare qualcosa, che ne so, da Dubai o da Sydney a Singapore o da Shanghai a Gioia Tauro costava massimi nella vita, e l'insieme di queste cose portava un punteggio massimo 11.700 punti. Ad agosto 2008 era già crollato a 7.500 punti, a dicembre 2008 ha toccato il suo minimo storico, 600 punti, per darvi l'idea della sberla presa anche da un indice del genere. Quindi è crollato il prezzo dei noli dei cargo, ricordiamo le immagini di decine e decine di cargo ormeggiati al largo dei principali porti al mondo. Aprile 2009 ha fatto 1.400 punti, giugno 2009 4.000 punti, e poi che cosa è successo? Lo chiedo al dottor Andrea Esposti, che lavora per Unicredito Banca, consulente di piccole imprese e segue con attenzione proprio il Baltic Dry Index. Buonasera, dottor Esposti. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Dicevo, da 11.000, quasi 12.000 punti di maggio 2008, crollo a 660 punti a dicembre 2008, ripresa fino a 4.000 punti, quindi ben sotto gli 11.000, insomma, fino a 4.000 punti a giugno, e adesso? E adesso i minimi degli ultimi mesi si sono registrati il 25 settembre a 2.200 punti. Attualmente siamo a 2.695. Quindi è sceso di nuovo, stranamente. È sceso di nuovo, sì, ha detto bene, stranamente. È chiaro che non sono anticipazioni scientifiche quelle del Baltic Dry, però sono anticipazioni tra virgolette reali, o meglio realistiche, perché si fondano su dati concreti, le navi, le merci, il traffico per mare di tutto ciò che ci circonda. Ed è stato un andamento in controtendenza rispetto a due altri indici importanti, ve ne porto due abbastanza semplici, sono l'S&P 500 e l'indice delle materie prime, del prezzo delle materie prime, che è il CRB. Il Baltic Dry avrebbe dovuto in questi mesi seguire strettamente questi indici, se esso anticipa e segue l'andamento della ripresa economica, cosa che è avvenuta solo da poco e con uno scarto importante. Allora mi faccia capire una cosa, perché insomma questo è l'indice che misura quanto è il costo medio per affittare un cargo. Esatto. Se riparte l'attività economica, il costo aumenta, perché per trasportare la merce ti chiederanno di più. Se crolla, come abbiamo visto, crolla anche l'indice. Esatto. Abbiamo visto che ha recuperato qualcosa, ma ha recuperato un 7-8% a fronte di borse che hanno guadagnato da inizio anno oltre il 20%. Se io a questo sommo il fatto che anche l'oro è sui massimi, record storico, altro bene rifugio, mi viene il dubbio, dottore Esposti, che la ripresa sia solo una ripresa di borsa, non ancora economica. Sicuramente è una ripresa che è stata anticipata dalle borse. Questa anticipazione è notevolmente superiore a quanto sta accadendo nella realtà. Mm-hmm. E forse è quel dato che è molto vicino alla sensazione delle persone, perché comunque, nonostante si continui a parlare anche a livello internazionale di una ripresa, diciamo a questo punto non più solo accennata, nella realtà dei fatti non sembrerebbe suffragata, no, dalla vita di tutti i giorni. Il Baltic Dry Index dà appunto, come dire, conferma del fatto che questa ripresa, se appunto si tratta di una ripresa importante, è non una ripresa ancora molto lenta nella, e non c'è ancora in maniera consistente sul commercio mondiale, perché insomma è tornato il costo di quanto del noleggio del nolo di un cargo ai livelli, diciamo, di maggio, non ai 4.000 punti di giugno, siamo a 2.600 punti, quindi dopo aver fatto un tonfo storico colossale, aver recuperato qualcosa, è sceso di quasi la metà. Non è una bella notizia, speriamo che sia solo, come scrivono alcuni ascoltatori, un problema di un eccesso di offerta di cargo che tiene basso il prezzo. Faccio notare però, mi corregga se sbaglio, che nel 2009 noleggiare una nave Capesize, cioè quelle le più grandi, no? Quelle che attraversano il capo, sono grandi tre volte la Statua della Libertà, insomma, è passato da circa $38,000 al giorno, così uno si fa anche un'idea se volesse noleggiare un mega cargo, a $18,000 al giorno, corretto? Sì, assolutamente, assolutamente. Parrebbe molto più conveniente oggi, ma in realtà questi prezzi sottendono evidentemente la difficoltà di portare, a completa copertura i cargo disponibili, il che non è effettivamente una notizia enormemente rassicurante. È vero, il Baltic Dry si sta muovendo positivamente, però è piuttosto lento nel suo muovere. Vorrei fare anche... Sì, una battuta che siamo in chiusura, prego. Esatto, una piccola battuta. I minimi del Baltic Dry, abbiamo detto, si sono registrati nell'inverno del 2008, novembre, sì, dicembre. I minimi dell'equity si sono visti della borsa un mese dopo. Esatto, la borsa ha avuto i minimi intorno a marzo, in primavera, quindi con uno scarto di 4 mesi. I massimi del Baltic Dry si sono visti a giugno del 2009, quando ha raggiunto i 4.000 punti, come ha citato lei. Cosa vuol dire? Che adesso, 4 mesi dopo circa, siamo ai massimi della borsa? Speriamo di no, nel senso, però è chiaro che nessuno può sapere esattamente in maniera scientifica cosa accadrà nei prossimi mesi. Sì. Però, se il Baltic Dry qualcosa ci dice comunque di essere molto prudenti sulla ripresa. E questo mi sembra chiaro, indice importantissimo su quanto costa noleggiare un cargo. Ripeto, chi volesse prendersi una nave grande tre volte la Statua della Libertà pagherà invece che $38,000 al giorno, $18,000 al giorno. Grazie anche per questo aggiornamento, dottor Andrea Esposti. 18:10 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Un ultimo aggiornamento da Wall Street, che comunque resta positiva di uno 0,4%, buono, lo dico chi si fosse messo in collegamento adesso, la chiusura di tutte le borse europee oggi, con Milano 1,5% tra le migliori, l'1,2 Parigi, l'1,2 anche Francoforte e lo 0,90 il rialzo di Londra. Seconda parte del programma, e come annunciato ci occupiamo di alcune dichiarazioni del ministro Tremonti, in particolar modo anche alcune indiscrezioni che oggi ha pubblicato il quotidiano di Napoli Il Mattino su un'idea che il ministro Tremonti caldeggia da molto tempo, non ne ha mai fatto mistero, e che sembrerebbe essere, diciamo, in dirittura d'arrivo, perlomeno in via di definizione, la cosiddetta banca del Mezzogiorno. Eh sì, perché la banca del Mezzogiorno, banca del Sud, vedremo come si andrà a chiamare, anzi si chiamerà banca del Mezzogiorno secondo quanto scrive oggi il quotidiano Il Mattino, ma potrà contare su un alleato, ossia tutta la rete degli sportelli postali, quindi su tutto il territorio italiano. Ma in questo piano che appunto il ministro dell'economia Tremonti starebbe mettendo a punto per rilanciare il credito al Sud, un disegno di legge composto da 5 articoli, vi è anche un'altra novità, ossia l'emissione di obbligazioni Sud, bond Sud, che dovrebbero garantire il necessario sostegno finanziario alle iniziative imprenditoriali proprio nel Mezzogiorno. Professor Carlo Trigilia, docente di sociologia economica all'Università di Firenze, editorialista anche del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, se ho ben capito, la Banca del Sud vedrà lo Stato come socio fondatore, un comitato promotore composto da 15 membri nominati dal Presidente del Consiglio su indicazione del Ministro dell'Economia, almeno 5 di questi membri proverranno da soggetti bancari con sede nelle regioni del Mezzogiorno e uno verrà dalle Poste, che metteranno appunto a disposizione le rete di sportelli presenti. Emetterà questa banca obbligazioni garantite dallo Stato, quindi equivalenti ai BOT, per fornire credito alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere i progetti infrastrutturali. Obbligazioni che avranno una durata superiore ai 18 mesi e potranno essere emessi da qualunque banca con un tasso del 5% per un importo massimo di 100.000 euro. Allora, la prima domanda è molto secca, poi veniamo all'analisi. C'è bisogno, secondo lei, di una banca del Sud? C'è bisogno a determinate condizioni. L'obiettivo può essere condivisibile, ma il diavolo sta nei dettagli. Per cui sì, ma, diciamo, come si dice in inglese. Sì. Il precedente che viene spesso evocato non è di quelli che fanno impazzire. Noi abbiamo avuto per 40 anni, più di 40 anni, la Cassa per il Mezzogiorno. Nacque infatti nel 1950 con un capitale iniziale di 1.000 miliardi di lire per appunto finanziare, programmare, eseguire le opere infrastrutturali, favorire l'insediamento delle aziende del centro-nord nel sud del paese. Beh, insomma, concesse anche molti finanziamenti a fondo perduto, a tassi agevolati, nei vari settori, industriale, agricolo, artigianale, turistico. Di fatto però A, non raggiunse mai gli obiettivi che si era prefigurata, ma soprattutto fu accusata di essere la leva per la politica, per il potere politico, per, diciamo, controllare il territorio e gestire le clientele, diciamolo tutta. E poi, come accusa ancora più forte, forse storicamente senza dubbio, e cioè quella di avere viziato l'economia del Mezzogiorno, averla resa ancora più un'economia di sussistenza e quindi non avere stimolato l'economia del Sud a camminare con le proprie gambe. Intanto vorrei capire se si corre un rischio di Cassa del Mezzogiorno e se il giudizio sulla Cassa del Mezzogiorno lei lo condivide. Ma guardi, il giudizio sulla Cassa per il Mezzogiorno deve essere un po' più articolato, sì, a mio avviso, nel senso che negli anni 50 e nei primi anni 60 la Cassa per il Mezzogiorno ha fatto anche delle cose buone che erano legate alla capacità di avere un progetto, una strategia complessiva e soprattutto di avere un personale competente, qualificato, molto motivato all'interesse pubblico e che riusciva in quella fase a mantenere anche un'autonomia dalle pressioni politiche. La storia successiva della Cassa per il Mezzogiorno è una storia invece in cui questi ingredienti originari si sono via via persi e quindi l'autonomia anzitutto rispetto alle pressioni politiche, il prestigio, la capacità professionale sono diminuiti e la distribuzione delle risorse è avvenuta sempre di più allontanandosi da una capacità di strategia volta a sostenere l'interesse pubblico nel Mezzogiorno e si è avvicinata invece sempre di più a una distribuzione a pioggia clientelare, certo. Che spesso, ecco, io credo che la Banca del Sud sia una finalità, abbia una finalità un po' diversa e condivisibile in termini di obiettivo generale, cioè che cosa dovrebbe fare la Banca per il Sud? Dovrebbe sostenere investimenti imprenditoriali sani, specialmente progetti innovativi che vengono nel Mezzogiorno, con risorse finanziarie adeguate e sostenute dallo Stato per appunto favorire, promuovere queste iniziative imprenditoriali, specie nel campo delle piccole e medie imprese. Quindi io, dal punto di vista dell'obiettivo, mi sembra che questo obiettivo sia largamente condivisibile, diciamo, da chi si rende conto di come sia importante oggi per tutto il Paese affrontare il problema del Mezzogiorno. I ma ai quali facevo riferimento nella mia risposta sintetica prima sono dovuti alle modalità attraverso le quali questo obiettivo sembrerebbe volere essere perseguito. Mi riferisco in particolare a due strumenti. Un primo tipo di strumento riguarda, come dire, la mobilitazione di risorse finanziarie consistenti, perché di questo si deve parlare se questo strumento deve avere degli effetti significativi per la realtà meridionale, risorse finanziarie consistenti da canalizzare in modo privilegiato verso iniziative imprenditoriali sane. E quindi qui abbiamo una serie di accorgimenti che sembra, diciamo, allo stato delle informazioni di cui disponiamo, il progetto di legge è ancora in sede di definizione, non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri, verrà probabilmente discusso a un preconsiglio domani. Abbiamo una serie di anticipazioni che ci fanno intendere come con vari strumenti si cerchi anzitutto di affrontare il problema del flusso di credito, certo. Dopo le informazioni perché in viaggio vorrei capire appunto anche come potrebbero funzionare queste obbligazioni per il Sud, Bond Sud, Sud Bond, però e vorrei anche un giudizio anche su un altro passaggio dell'intervento di oggi del ministro Monti in Asso Lombarda, quando ha detto, beh, insomma, si stava meglio con le banche nazionali, le BIN, e si trova meglio prima della privatizzazione. Forza un po' il concetto, ma insomma ha detto che Telecom Italia, Enel, le banche privatizzate sono state di fatto un errore. Di nuovo in diretta, ultima parte di Focus Economia. Allora, la cassa del Mezzogiorno, che ripeto non ha nulla a che vedere con la Banca del Sud, però insomma fu l'ultimo grande tentativo di rilanciare l'economia del Mezzogiorno, venne a costare complessivamente al paese 280 mila miliardi di lire, 140 miliardi di euro del periodo, in 42 anni di attività, arrivando a contribuire al PIL dell'economia del Sud per quasi un 20%. Risultati deludenti: le aree depresse d'Europa, secondo lo Svimez, deboli, sono cresciute in media negli ultimi anni del 3% all'anno, il nostro Mezzogiorno non è andato oltre come media, lo 0,3% all'anno. E adesso la cosa più interessante è appunto l'arrivo di questi bond, bond sud bond. Sì, scrive uno ascoltatore: piacere, sono bond sud bond. Professor Trigilia, ci faccia anche scherzare, perché di sti bond, tra i Tremonti bond, i sud bond, gli euro bond, manca solo James Bond e poi siamo a posto. Però al di là della battuta, questo strumento può diventare l'elemento per, diciamo, fluidificare il credito. Il credito alle imprese è ingessato un po' dovunque, questo ce lo dicono molti ascoltatori. Nel sud è anche peggio rispetto alle regioni del centro-nord, mancando anche una rete di banche più locali, più legate al territorio. Allora, veniamo su questo punto che mi sembra, diciamo, il progetto progetto sembra articolarsi su due gambe in particolare. La prima è quella di mobilitare risorse finanziarie spingendo verso un impiego nel Mezzogiorno. Questo avviene direttamente attraverso l'intervento provvisorio per 5 anni dello Stato in questo nuovo istituto, ma avviene anche attraverso la garanzia che lo Stato può dare a delle obbligazioni per il finanziamento di piccole e medie imprese emesse da questo stesso istituto. La novità ultima sembrerebbe però la possibilità di utilizzare dei bond sud che non sarebbero diciamo attribuiti esclusivamente alla nuova banca per il sud, ma anche ad altri istituti, e che potrebbero valersi di un particolare regime finanziario fiscale volto a incentivare gli investitori a sottoscrivere questi titoli, mentre la banca per il sud avrebbe un compito di controllo del fatto che poi gli impieghi siano effettivamente di questi bond vadano effettivamente all'economia meridionale. Quindi questo è una strada, un tentativo di mobilitare risorse finanziarie e convogliarle verso gli impieghi nel sud. Vorrei dire qualche cosa sulla seconda strada, che secondo me è il vero punto problematico. La seconda strada, la seconda gamba, è quella di cercare di appoggiarsi, come più volte è stato detto, a delle reti di istituzioni creditizie radicate nei territori, quindi le banche di credito cooperativo, poi a questo si aggiungeranno le poste, sì, vedremo bene come, però il vero nodo mi sembra questo, le banche di credito cooperativo. Perché sarebbero importanti rispetto a istituti più tradizionali e di livello nazionale che operano anche nella realtà meridionale? Perché di solito si fa a questi istituti nazionali, a queste banche grandi di livello nazionale, la critica che esse operano con criteri burocratici e con criteri con standard che finiscono per non privilegiare attività come quelle che possono nascere o sono operative nel Mezzogiorno, che per le loro caratteristiche, la loro debolezza, la più debole capitalizzazione eccetera, finiscono per non essere privilegiate. Cioè, quindi potrebbero permettersi tra virgolette l'assunzione di qualche rischio in più e soprattutto di prestare soldi con coefficienti un po' più larghi, chiamiamolo. Ecco, però questi istituti operano sulla base di regole di natura generale, certo, di criteri burocratici, e si servono di operatori, di personale che all'interno di queste grandi organizzazioni opera in modo diciamo più strettamente legato a queste regole, e quindi questo penalizzerebbe. Ciò spiega l'interesse e l'attenzione per delle banche di credito cooperativo che sono delle antenne, per così dire, decentrate nel territorio. Qual è il vantaggio in questo caso rispetto agli istituti tradizionali? Si dice che il vantaggio è ovviamente il fatto che, essendo radicate nei territori, gli operatori hanno delle conoscenze migliori dei soggetti, delle imprese, delle attività, al di là dei coefficienti patrimoniali e delle regole di natura burocratica delle grandi organizzazioni bancarie, e possono quindi far valere dei legami fiduciari. Professore, io ho bisogno che però mi concluda, perché abbiamo 2 minuti e ho ancora una domanda per lei, prego. No, il punto è che questa questione è effettivamente un punto nodale importante che, per cui si potrebbero sostenere queste antenne decentrate, queste banche dei territori. Attenzione però a una cosa, c'è una sorta di trade-off, cioè è vero che sono radicate, che hanno conoscenze migliori, ma sono, in termini di competenze e di capacità organizzative, meno attrezzate a valutare progetti innovativi nel medio e lungo termine, perché sono più abituate ad operare col su progetti tradizionali. E questo è chiaro. E una cosa, quindi se ho ben capito il suo ragionamento, professor Trigilia, le dice: in questo modo, utilizzando le banche di credito cooperativo presenti al sud e utilizzando questa banca del sud che avrebbe la possibilità di emettere sud bond, questi, cioè, ci sarebbero dei crediti un po' più agevolati per le piccole e medie imprese del sud, e, se mi permette poi il gioco di parole, in questo modo i Tremonti bond rientrerebbero dalla finestra attraverso i sud bond. E quindi quindi sempre di bond. Andiamo a parlare. Professor Tegia, la convince questo? Cioè, potrebbe essere un modo per far rientrare, mi dica solo se no, l'offerta, diciamo, di garanzia alle banche da girare poi alle imprese, che molte banche, le più grosse, hanno rifiutato, attraverso il sistema bancario del Sud? Mi lascia perplesso il fatto che non vedo un intervento sulle capacità e le competenze degli operatori che dovrebbero agire in queste strutture decentrate, perché non sono abituati, hanno la fiducia, la conoscenza dei soggetti, ma non le competenze per sostenere adeguate, per sostenere progetti imprenditoriali innovativi e per fornire i servizi qualificati che la piccola e media impresa del Sud non ha e che sono oggi importanti per l'internazionalizzazione, per muoversi nei mercati. Quindi attenzione, su questo bisognerebbe insistere. Quindi attenzione, ma integratela anche, o date una mano, o fate in modo che possano appoggiarsi a chi ha delle competenze per valutare progetti, diciamo, non tradizionali, non la solita linea di credito che ti serve per comprare. Se no cadiamo dalla padella alla brace. Se no, ma è chiarissimo il rischio che lei paventa. Grazie anche all'economista Carlo Trigilia, che insegna all'Università di Firenze ed è editorialista del Sole 24 Ore. Vabbè, Focus Economia in versione bond finisce qui. Vedremo poi se vi saranno i dettagli, anzi arriveranno sicuramente, di questo disegno di legge sulla Banca del Sud e sui Sud Bond dopo i Tremonti Bond. Da Sebastiano Barisoni un auguro di buona serata. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia.